l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio dopo la pausa pasquale. Io sono Lucia Cappellucci e questa non può che essere Radio Libriamoci Web. Passiamo senza indugio alle notizie. Le prime sono brevi e provenienti un po' da tutto il mondo. Da www.repubblica.it del 7 aprile 2012. Grecia. Grave la situazione dei minori, oltre 400.000 in condizioni drammatiche. Dati davvero preoccupanti diffusi dall'UNICEF. Il 23% dei bambini greci vive in povertà rispetto alla media europea. Il 33% delle famiglie povere è composta da un unico genitore. Nel paese, la più alta percentuale di ragazzini sottopeso dell'intera Europa. Atene. Il comitato greco dell'UNICEF ha presentato con l'Università di Atene il rapporto dal titolo La condizione dell'infanzia in Grecia 2012, che analizza la situazione dell'infanzia in Grecia. Sono dati molto preoccupanti. Il 23% dei bambini è povero rispetto alla media europea, che è invece del 20,5%. I minorenni che vivono sotto la soglia di povertà sono 439.000. Le famiglie povere sono il 20,1% rispetto al totale delle famiglie. Il 33,4% delle famiglie povere è una famiglia composta da un unico genitore, mentre il 28,7% delle famiglie con bambini si sono trovate in condizioni di povertà o esclusione sociale, dato che sale al 34,7% per le famiglie con adolescenti. La Grecia ha la più alta percentuale di bambini sottopeso dei paesi OCSE. Il rapporto analizza il grado di efficacia della legislazione greca e delle politiche relative al miglioramento delle condizioni di sostentamento dei bambini, come previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Su una popolazione totale di 11 milioni, i minorenni sono poco meno di 2 milioni. Passiamo ora a parlare di una campagna veramente molto importante e che sarebbe bene fosse conosciuta dal maggior numero di persone possibile. Da www.vita.it. Sanità, cordoni ombelicali, informazioni in biblioteca, del 13 aprile 2012. Nuova campagna ADOCES. Parte Nati per donare, la campagna informativa sulla donazione del sangue cordonale promossa dalla Federazione Italiana ADOCES, Associazioni Donatori Cellule Staminali, in collaborazione con AIB, Associazione Italiana Biblioteche e il patrocinio del Ministero della Salute. L'obiettivo della campagna è la capillarità dell'informazione. Infatti, per la prima volta i materiali informativi della campagna saranno distribuiti in 800 biblioteche italiane. Inoltre, la comunicazione raggiungerà anche la maggior parte dei futuri genitori stranieri che risiedono in Italia, attraverso le 8 versioni delle dispense informative, in altrettante lingue: inglese, francese, spagnolo, arabo, albanese, cinese, rumeno e bangla. In questo modo sarà possibile sensibilizzare alla donazione del sangue cordonale un'importante fetta di popolazione che ad oggi, per questioni linguistiche in primis, è spesso esclusa dall'informazione sulla donazione del sangue cordonale. La donazione delle madri immigrate, invece, ha un'importanza sempre maggiore. Anche loro connazionali che vivono in Italia si ammalano, ma è molto difficile garantire loro un trapianto a causa delle differenti caratteristiche genetiche rispetto alla popolazione italiana. Se si diffonderà la cultura della donazione, anche presso le principali minoranze sarà possibile garantire loro una riserva biologica di cellule staminali per poter avere un trapianto. Ed infine una piccola, ma che promette veramente male, notizia dai Balcani. Da www.elmensile.it. Macedonia. Ombre sulla morte di 5 giovani. Del 13 aprile 2012. Poco distanti da un lago nella capitale di Skopje, sono stati trovati corpi senza vita di 5 ragazzi, presumibilmente tutti macedoni, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. La polizia non ha ancora voluto fornire gli estremi dell'identità dei ragazzi, perché sullo sfondo restano i sospetti della lotta interetnica in corso nel paese. I 5, su cui corpi c'erano ferite causate da armi da fuoco, che molto probabilmente si trovavano nei pressi del lago per pescare, potrebbero essere delle vittime del conflitto etnico, nel quale la minoranza albanese, circa 2 milioni, il 25% della popolazione macedone, chiede maggiori tutele per la propria etnia. Dopo lunghi scontri tra il movimento di guerriglia albanese e forze governative, Nel 2001 si pensava di aver trovato un accordo, l'accordo di Ohrid, con il quale c'erano state aperture per una convivenza più serena. A quanto pare, però, i diritti reciproci devono ancora trovare una strada percorribile da entrambe le etnie. L'eco del silenzio. Silenzio. Torniamo ora su una notizia di cui vi ho già parlato alcuni mesi fa, ovvero la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, da www.repubblica.it, del 6 aprile 2012. Ospedali psichiatrici giudiziari, nessun progetto prima di chiuderli. Mercoledì 31 marzo è scaduto il termine entro il quale le regioni si sarebbero dovute dotare di un piano di accoglienza delle 1.400 persone rinchiuse negli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che, in teoria, il prossimo 1 febbraio 2013 dovrebbero definitivamente chiudere. Di Luca Attanasio. Il 31 marzo scorso scadeva il termine entro cui regioni ed enti locali si sarebbero dovuti dotare di piani per l'accoglienza degli internati degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani. Entro il 1 febbraio 2013, infatti, tutte le strutture presenti in Italia dovranno chiudere. Ad oggi, però, non è stato presentato alcun progetto. Il presidente del Forum per la Salute in Carcere e la rappresentante della Caritas diocesana di Roma, membro della Consulta regionale per la salute mentale, lanciano l'allarme. Molti italiani hanno ancora negli occhi le immagini da girone dantesco raccolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale e trasmesse nella puntata di Presa Diretta del 20 marzo 2011. Si vedevano gli ospiti di alcuni dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari dislocati nel territorio italiano in condizioni di assoluta privazione dei diritti elementari, reclusi in complessi fatiscenti che ricordavano più prigioni medievali che strutture moderne di riabilitazione sanitaria e sociale, impossibilitati a difendersi senza contatti con l'esterno. Pur non sembrando tali, sono esseri umani. Alcuni finiti lì dentro per meri errori giudiziari, condizioni di povertà estrema, serie di sfortunati eventi. Altri, entrati sani di mente e divenuti pazzi dopo anni di segregazione. Altri ancora, certamente colpevoli, ma mai meritevoli di simili esistenze. Gli OPG, ex manicomi criminali, sono l'anomalia nell'anomalia di un sistema carcerario italiano noto per le sue strutture al collasso. Un terzo di detenuti in attesa di giudizio e tasso di suicidi, anche tra le guardie carcerarie, in costante aumento. A scrivere, almeno teoricamente, la parola fine al mix esplosivo di mala giustizia, ingiustizia e mala sanità, rappresentato dagli OPG, ci ha pensato la legge numero 9 del 17 febbraio 2012, che fissa entro il 1 febbraio 2013 la loro definitiva chiusura e il successivo ingresso in nuove strutture dei circa 1.400 ospiti. Ma i toni trionfalistici usati negli ultimi tempi riguardo questa misura non sembrano affatto giustificati. Innanzitutto, entro il 31 marzo scorso, le regioni avrebbero dovuto fornire un piano dettagliato di accoglimento degli internati e a tutt'oggi di strategie non vi è la minima traccia. Poi, denuncia Daniela Pezzi, Caritas diocesana di Roma, il grosso timore di molti degli operatori del settore è che, dato il ritardo nel pianificare metodi e provvedere a complessi di accoglienza, ci si trovi a marzo del prossimo anno con strutture forse più decorose, ma che perpetuano la logica manicomiale criminale. Per questo, associazioni come Stop OPG parlano di riduzione del danno, non di reale soluzione, e invitano a riflettere sul cambiamento totale di prospettiva che una nuova legislazione dovrebbe comportare. Bisogna mutare radicalmente la cultura riguardo queste strutture e ribaltare il concetto secondo cui viene prima la pena della cura, dice Fabio Gui, segretario generale del Forum, dal Convegno Nazionale di Firenze. Gli OPG in Italia, se si esclude Solliciano, una struttura penitenziaria che si occupa anche di sanità mentale, sono 6. 2 di questi sono in Campania, Anversa e Sant'Eframio a Napoli, uno in Emilia, a Reggio Emilia, un altro in Toscana, a Morlupo Fentino, e uno in Sicilia, a Barcellona Portorigotto. In linea di principio, la questione degli ospedali psichiatrici giudiziari, paradossalmente, non è mai stata tanto vicina ad una svolta, spiega il senatore Roberto Di Giovanpaolo, presidente del Forum per la Salute in Carcere. Per la prima volta ci si prefigge di superare il concetto di cura subalterno alla pena e si chiama in causa, per attuare la riforma, il Ministero della Salute. Ci preoccupa però che le regioni tardino a presentare un piano. La situazione, se non si fa qualcosa, resterà esattamente come la si è vista in quel documentario di Presa Diretta. Fortezze medicee, come Montelupo Fiorentino, castelli medievali, Aversa, complessi cadenti, Barcellona Pozzo Rigotto, le strutture che oggi ospitano i 1400 detenuti psichiatrici riportano il sistema penitenziario italiano indietro di secoli. Sono i nuovi luoghi dell'orrore, riprende Pezzi. Un microcosmo in cui alla durezza della vita in carcere si aggiunge la segregazione di un'esistenza in manicomio. Secondo la nostra indagine, conclude Di Giovan Paolo, almeno 200 detenuti degli OPG dovrebbero essere rilasciati immediatamente. Altri hanno diritto a godere dei benefici di legge. La nuova legge di riforma carceraria stanzia 180 milioni, 120 nel 2012 e 60 nel 2013, per la realizzazione e la riconversione delle strutture penitenziarie. Secondo gli esperti, con le risorse destinate agli ospedali psichiatrici giudiziari, si potrebbe giungere finalmente al superamento definitivo di queste strutture e puntare a una reale riforma del sistema carcerario psichiatrico. L'eco del silenzio. Da www.repubblica.it del 14 aprile 2012. Le scuole indiane riservano un quarto dei posti ai bambini poveri. Lo ha stabilito la Corte Suprema. Esclusi dalla sentenza, gli istituti delle minoranze che non ricevono aiuti. Il provvedimento rientra nel Right to Education Act, la legge che prevede la scuola obbligatoria gratuita per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. New Delhi. Dal sito di Asia News si apprende che a partire dal prossimo anno scolastico tutte le scuole pubbliche e private dell'India dovranno riservare il 25% dei posti a bambini e ragazzi poveri, ad esclusione degli istituti delle minoranze che non ricevono aiuti. Lo ha stabilito ieri una sentenza della Corte Suprema, chiarendo uno dei punti più contestati del Right to Education Act, la legge che prevede la scuola obbligatoria e gratuita per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Nel comunicare il verdetto, il giudice Kapadia ha ricordato che negare a un bambino il diritto di avere un'istruzione significa privarlo del suo diritto a vivere con dignità e libertà di parola ed espressione. Approvata il 1 aprile di 2 anni fa, la legge aveva raccolto le critiche di alcuni istituti religiosi che giudicavano incostituzionale l'obbligo di riservare il 25% dei posti ad alunni poveri. Secondo alcune scuole cattoliche, infatti, una simile regola era troppo gravosa per i bilanci di istituti che, in realtà, già accolgono bambini e ragazzi di fasce sociali disagiate. Le scuole riceveranno un sussidio, il 65% dal governo centrale, il 35% da quello statale, che non coprirà l'intera spesa, ma solo il materiale scolastico necessario a ogni studente. Tuttavia, i fondi stanziati a livello locale varieranno da stato a stato, a seconda delle rispettive possibilità. Il governo spenderà circa 3.000 rupie, circa 45 euro all'anno, per ogni bambino della scuola primaria. Secondo dati del 2007-2008 citati dalla Corte Suprema, su 1.250.755 scuole di istruzione primaria, l'82% sono governative, il 5,8% private che godono di aiuti, il 13,1% private che non ricevono aiuti. Di questo, l'87,2% si trovano in aree rurali. E per finire l'ultima notizia da www.vita.it. Darfur, il rapporto che imbarazza l'ONU, del 13 aprile 2012, di Joshua Massarenti. Ban Ki-moon fa calare silenzio sulle violazioni del regime di Khartoum. Mentre gli occhi della diplomazia internazionale sono puntati sugli scontri che oppongono il Sudan al Sud Sudan, dopo mesi di silenzio mediatico, il Darfur torna a far parlare di sé. A finire nell'occhio del ciclone non è soltanto il regime di Khartoum, ma anche le Nazioni Unite. Un articolo pubblicato oggi da Africa Confidential mette in luce un vero e proprio caso diplomatico che rischia di incrinare l'immagine del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e soprattutto il metodo politico adottato dall'ONU per gestire i regimi di sanzioni contro i regimi sanguinari. Il sito di informazione africano parla di terremoto diplomatico, provocato da un rapporto scritto da 3 ex esperti delle Nazioni Unite, in cui il governo sudanese è sospettato di utilizzare armi cinesi contro le popolazioni civili del Darfur. Secondo Africa Confidential, il rapporto starebbe circolando in maniera clandestina nei piani alti del Palazzo di Vetro, creando un forte imbarazzo tra i membri del Consiglio di Sicurezza. Il nodo del problema ruota in realtà attorno alle accuse mosse dagli ex esperti ONU contro i metodi di lavoro e la neutralità del panel, nominato da Ban Ki-moon in persona per monitorare l'applicazione delle sanzioni sulle armi e gli spostamenti di persone e entità non governative in Darfur. Il tunnel, costituitosi nel febbraio 2011, esplode dopo pochi mesi di attività in seguito alle dimissioni di 3 membri su 5, Michael Lewis, Claudio Gramizzi e Jerome Tubiana, 3 esperti riconosciuti a livello internazionale per le loro competenze sui traffici di armi in Africa e la loro conoscenza della regione. Nonostante le loro dimissioni, Gramizzi, Tubiana e Lewis decidono di scrivere un rapporto di attività in cui denunciano il pessimo lavoro di gruppo svolto dal coordinatore del panel, accusato di aver ostacolato lo scambio di informazioni tra i membri del panel, una procedura di lavoro determinante per il buon esito del rapporto. Nel rapporto consegnato il 24 gennaio, i 3 ex esperti del panel sottolineano il dovere di comunicare al Comitato delle Sanzioni delle Nazioni Unite le conclusioni delle loro inchieste. Conclusioni che contrastano in modo sorprendente con quelle raggiunte dagli esperti ufficiali rimasti in carica e quelli nuovi che hanno sostituito i dimissionari, in un rapporto ufficiale, quello, consegnato guardo a casa lo stesso giorno. Con tanto di prove schiaccianti, il rapporto non ufficiale denuncia le violazioni dell'embargo sulle armi in Darfur perpetrate dal regime di Khartoum. Secondo gli ex esperti, il governo sudanese avrebbe importato legalmente armi dalla Cina e dalla Bielorussia, per poi trasferirle in Darfur e utilizzarle contro le popolazioni civili. Ma la vicenda viene passata sotto silenzio dal rapporto ufficiale, che menziona le violazioni in poco meno di un paragrafo. Lo stesso discorso vale per la pulizia etnica, di cui le popolazioni Zagawa sono vittime, che il rapporto ufficiale tratta in appena 3 capitoli, contro i 28 paragrafi dettagliatissimi scritti da Gramizzi, Lewis e Tubiana. Infine, ci sarebbe da interrogarsi sul modo con cui il rapporto ufficiale affronta le sanzioni ONU, che ufficialmente impediscono a alcuni individui di viaggiare al di fuori del Sudan. Gli ex esperti hanno registrato 3 casi di violazioni su 4 analizzati, mentre il panel ufficiale sostiene che le violazioni non sono incrementate. Le omissioni sono tanto più sospette che prima di dare le loro dimissioni, i 3 ex esperti avrebbero consegnato le loro note ai loro colleghi. Ma la cosa più sorprendente è che il rapporto ufficiale non è mai stato reso pubblico. Di solito passano al massimo 4 settimane tra la data della consegna di un rapporto al Comitato della Sezione ONU e la decisione del Consiglio di Sicurezza di pubblicarlo. Sapendo che il rapporto ufficiale è stato consegnato il 24 gennaio, perché non è mai stato reso pubblico? Da quella data sono trascorsi più di 2 mesi. Con le rivelazioni di Africa Confidential c'è da giurare che il palazzo di vetro comincerà a tremare. Anche per questa settimana è tutto. Da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.